Loco 19. Loco 19. Vedi, c'è già un effetto eco che sei. Ma benvenuto al Loco 19. Yeah! Eccoci, eccoci qua. Credevate di averci seminato e invece siamo qua. Dan, ci vediamo questa volta. Ciao Omot, sì, ci vediamo. E invece non vediamo, ma dovremmo sentire Nemo. Ciao Nemo. Ciao gente, eccomi. Eccoti là anche te. Allora, abbiamo una scaletta molto fitta, vorremmo dare una panoramica dalla Spagna, un contributo che ci viene dalla Spagna, poi abbiamo una serie di trasmissioni che affrontano un pochino di registrazioni, di interviste, di comunicati sulla questione sanitaria, sia per quanto riguarda l'aspetto fisico, sia per quanto riguarda l'aspetto psicologico e emozionale, relazionale. Quindi io partirei subito, che dici Dan? Partiamo. Ciao a tutti, io sono Victor Serri, fotoreporter della Diretta, un giornale cooperativo dei movimenti sociali catalani di Paese Valenciano, quindi dei paesi catalani. E, sono in stanza qui a Barcellona, vi spiego un piccolo aggiornamento sulla questione coronavirus, misure di sicurezza, tanto in Catalogna come nello Stato spagnolo. Se guardiamo quello che è successo da luglio in poi, abbiamo potuto notare un arrivo abbastanza precoce di una seconda ondata in Catalogna principalmente, inizialmente nella zona del Segre, quindi dove si raccoglieva la frutta perché era la piena stagione di raccolto, e poi anche nella città catalana, principalmente legata ai quartieri più popolari, quindi più densamente abitati, e ai piccoli municipi dell'Interland, per così dire, dell'area metropolitana barcellonese, come Ospitalet ad esempio. Questa prima ondata, seconda ondata che è arrivata in maniera inaspettata da parte dei governi che già si aspettavano qualcosa più verso settembre, è stata in qualche modo controllata con la richiesta di non trovarsi in più di 10 persone nei bar, di ridurre la mobilità, di responsabilizzare così la società su essenzialmente quello che poteva succedere. Dall'altra parte quello che è successo in altre regioni è stato un po' messo a tacere, quindi in Navarra i numeri sono esplosi, era una delle zone più colpita, assieme anche all'Aragona, che sono curiosamente invece territori di governo socialista, mentre invece si preferiva parlare delle responsabilità degli indipendentisti. Poi dopodiché è arrivato il grande caso di Madrid, che soprattutto è arrivato giustamente in questo mese di settembre e ora in ottobre. I numeri dei casi di Madrid erano e sono tuttora tremendamente preoccupanti, parliamo di circa più di 3.500 nuovi casi in un fine settimana, circa 1.500 in un giorno solo nella comunità di Madrid. Parliamo comunque di numeri importanti. Negli ultimi 7 giorni in tutto il territorio spagnolo sono state circa ospitalizzate circa 150.000 persone. Sono numeri abbastanza grossi. Di queste, circa 14.000 negli ultimi 7 giorni sono state oltretutto messe in cure intensive. Quindi la situazione già di per sé è abbastanza complessa e preoccupante. È anche vero che c'è una questione politica di fondo che è quella principale che genera il conflitto. Soprattutto per quello che riguarda Madrid, in cui governa Isabel Díaz Ayuso del Partito Popular, con un'alleanza assieme anche a Ciudadanos, mentre lo Stato centrale è governato da un accordo tra i socialisti di Pedro Sánchez e il partito Podemos di Pablo Iglesias. Quindi questo conflitto, diciamo, sinistra-destra nella capitale prende un peso abbastanza importante. Ayuso non voleva assolutamente confinare, quindi fare un lockdown sulla città, e ha iniziato in qualche modo a responsabilizzare buona parte dei migranti perché non hanno la nostra cultura e hanno uno stile di vita che è pericoloso per la sanità e per la società stessa, e poi ha responsabilizzato i quartieri più popolari come ad esempio Vallecas, facendo con loro solo un parziale lockdown in cui gli permetteva sì di andare a lavorare però non di girare per la città. Quindi questo è stato un primo caso. Il conflitto poi è aumentato giustamente anche perché a Vallecas le persone che vivono in quei quartieri, nei vari quartieri popolari, non erano disposte ad accettare questa, semplice razzista e classista decisione della loro governatrice. Hanno protestato, sono stati poi in parte anche presi a botte dalla polizia che ha cercato di evitare questa forma di protesta in qualche modo. Ma il conflitto si è mantenuto soprattutto nell'ambito istituzionale, in cui Ayuso non era disposta ad applicare un lockdown a Madrid se non si fosse applicato lo stesso lockdown con gli stessi criteri sanitari in tutta la Spagna, con la stessa logica del Madrid e la Spagna dentro la Spagna, come lei ha detto. Quindi c'è una questione nazionale di fondo molto importante, un centralismo di fondo che determina delle decisioni politiche importanti che hanno degli effetti diretti sulla salute. E lo stiamo vedendo in questi giorni. Questo dibattito conflitto tra il primo ministro Sanchez e con Díaz Ayuso non si è risolto fino a quando, con pugno duro, Sanchez ha deciso di applicare lo stato di allarme, quindi lo stato di emergenza, su Madrid, chiudendola. Ora la situazione assolutamente non si è risolta, anche perché da un paio di settimane che sono aperte le scuole, si inizia un aumento, a notare un aumento di casi e già si preannuncia, lo dico oggi che è martedì, però probabilmente giovedì o venerdì prossimo ci sarà un nuovo parziale lockdown periferico in altre zone altamente colpite, come appunto la Catalogna. Probabilmente non sarà possibile uscire da Barcellona o da alcuni comuni limitrofi, è una delle cose che si stanno discutendo. Quindi in questi numeri che stanno aumentando, abbiamo visto come in parte quello che è sempre stato più colpito è stata la vita sociale, soprattutto nei locali come bar, come il cosiddetto ozio notturno, quindi discoteche e quant'altro, e relativamente sono state messe in questione il funzionamento stesso degli spazi di lavoro. È anche vero che comunque la nuova legge approvata dal Consiglio dei Ministri permette a tutte le aziende di poter applicare più telelavoro, quindi smart working, lavoro a distanza. Vedremo come potrà essere applicato in futuro e che effetti potrà questo avere in realtà sul numero dei casi che abbiamo qui nello Stato spagnolo. Molto imbarazzante, ma sto bene, davvero. Sarà qualche virus nell'aria. Prima l'ha avuto mia moglie, poi mio figlio e adesso io. È una specie di bronchite. Potrebbe anche essere un calo di zuccheri. Sa, non ho fatto colazione stamattina. Ma ascolti, mi può fare un favore? Mi potrebbe far scendere da qualche parte? No, mi dispiace. È che non ho una buona assicurazione. Ci siamo lasciati molto tempo fa. La curva era scesa e ora risale, con qualche piccola differenza. Lo spettacolo sembra lo stesso: chiusure, mascherine, il bollettino della Protezione Civile alle 18. Paura. Sono ora in azione il tempo breve della rabbia e la rivolta, il tempo della costruzione e il tempo lungo della natura. Rubiamo queste parole dal blog di Alessandra Simonelli. In questa situazione straordinaria, dettata dall'emergenza Covid-19 e dalle misure di contenimento, molte persone si trovano a vivere da sole, lontane dalle famiglie di origine o dalla cerchia di amicizie, oppure troppo vicine, tutti insieme, come forse non era mai successo. E questo può costituire un fattore di malessere importante, spesso ingigantito dalle notizie preoccupanti che arrivano dai media e dal mutare delle informazioni, delle prospettive, delle possibili soluzioni indicate dagli organi di governo. In altre parole, ognuno è esposto a condizioni aliene rispetto alla propria visione esistenziale, e questo risulta un ulteriore fattore di disagio e o di malessere a livello psicologico. Così come molta letteratura scientifica sul tema sta ormai dimostrando da anni, Esiste un pericolo sanitario, ma esistono anche dei pericoli psicologici derivati dall'emergenza sanitaria stessa, nonché dalle misure adottate per contenerla o rallentarla. Non possiamo ignorare questi aspetti. Quello che molti scienziati delineano, infatti, è che quest'onda lunga del Covid-19 ad un certo punto scenderà, ma ci sarà all'orizzonte un'altra onda lunga, quella del malessere e del disagio psicologico, che probabilmente arriveranno alla fine proprio da chi ha resistito meglio, da chi ha lottato, da chi ha avuto coraggio e potrebbe trovarsi sguarnito, stremato da questo sforzo. Abbiamo chiesto a Claudia dagli Stati Uniti, dottoressa, psicanalista e operatore sociale, se la situazione pandemica rappresenti un disagio mentale a livello globale, quali sono le conseguenze e se la pandemia rappresenti un PTSD, disagio da stress in seguito a trauma. If you already had some underlying symptoms that were not coming up to the surface because you had all these other ways of dealing with life, like seeing friends, going out, exercising, traveling, eating out, all these other things that we used to do, well, all those things were helping us not having some symptoms. So if we have some symptoms already that were there, but we were Chi addressing them dovesse già avere dei sintomi di disagio che non arrivano in superficie mettendo a rischio la funzionalità perché si avevano delle modalità di gestione, uscire, vedere amici, fare esercizio, viaggiare, mangiare fuori. Ora, in mancanza di queste cose, i sintomi possono presentarsi e i sintomi sono ansietà, depressione, aggressività, paranoia, compulsività e comportamenti violenti. Ce ne sono altri, ma questi sono i più comuni che emergono in questa situazione. Was holding them, meaning the structure was the social structure around them and all the activities they had access to were Ora che available vengono meno queste possibilità di sfogo, le persone che hanno ad esempio un problema di ansietà, non potendo temperarla con le attività consuete, uscire, vedere amici, e ora che c'è una sensazione di pericolo nello stare fuori casa, la loro ansia si esacerba e aumenterà, e questo porterà ad altre forme di disagio, paranoia, violenza, depressione. I can go, I feel free to come in and out of my home. I don't have the stress and the pressure of having to think about going outside is dangerous. So I may get more anxious now. So my anxiety will increase because of these circumstances. So I was anxious before. So I had this symptom before, but it was very controlled. I was functional. But now I don't have all these supports around me or places where I can find leisure and support. So my anxiety will be exacerbated. And that can go for depression and for violent behavior and for paranoid thoughts and behaviors. So it's not for Questo everybody. non si applica a tutta la popolazione, ma solo quella che aveva già un disagio. Ma questa può diventare una questione pubblica di salute, o più precisamente una questione di salute mentale pubblica, perché tutte le persone che prima funzionavano normalmente ora non hanno accesso a quello che gli permetteva di essere funzionali. Now they don't have access to whatever was helping them function normally. These things could get exacerbated by the isolation because the isolation is preventing us from having venues L'isolamento impedisce di accedere alle risorse che impedivano l'esacerbarsi dei sintomi e questo diventerà, o è già diventata, una questione di sanità pubblica. or has already become a public health issue. Can damage relationships in many ways. Isolamento e costrizione possono danneggiare le relazioni. I genitori possono diventare più impazienti, il partner può diventare meno tollerante, avere meno cura. Anche se le famiglie sono insieme a casa e beneficiano dello stare assieme, non è qualcosa a cui siamo abituati ed è una cosa forzata. Quello che succede con questi eventi è che non c'è scelta, dunque manca controllo sugli eventi che ci riguardano. Una delle caratteristiche di un trauma è che si sperimentano cose sulle quali non si ha controllo. E questo ci fa sentire senza aiuto e senza speranza. La situazione odierna ha tutte le caratteristiche di un trauma perché non abbiamo controllo su quello che succede. C'è un virus in giro che uccide gente in tutto il mondo e non abbiamo controllo al riguardo. That's killing people across the world, and we have no control over it. E non solo, non abbiamo controllo sul nostro spazio, sul dove andiamo, e neanche nella nostra famiglia possiamo decidere molte cose. C'è molta mancanza di controllo sulle nostre vite e la cosa causerà ansietà. E la cosa riguarda tutti, quarantena, isolamento e paura. Paura di ammalarsi, paura di morire. Vedi, la morte è qualcosa a cui non siamo abituati a pensare. So that, you know, it piles up, and that becomes a problem, a massive problem, because it's everybody is subjected to this situation of being isolated, quarantined, and in fear. In fear of, will I get sick? Will I die? You know, it's not something that we think all the time. We really don't think about dying, even though it's present and it's real. We don't think about that every day. So that fear is a constant fear. It also stresses everybody. Creo que what I really think is that governments and public health officials, I mean, this credo che il governo e le autorità sanitarie, la sanità pubblica, debbano cominciare a pensare ad affrontare queste situazioni. La mancanza di controllo, l'esacerbazione dei sintomi, il trauma potenziale, il conflitto che può avvenire nelle famiglie e nelle relazioni. Da una prospettiva di salute pubblica ci deve essere il riconoscimento che questa cosa esiste, perché sono già 6 mesi che tutti abbiamo vissuto questa situazione e non possiamo essere distratti dall'economia e dalla politica che gli sta attorno, ma dobbiamo occuparcene ed evitare un costo più alto in termini di disagio. Because it has been 6 months of everybody experiencing this, and occuparcene a livello pubblico, ad esempio creare informazione, volantini, pamphlet da distribuire in modo che la gente sappia cosa potrebbe accadere, che questo potrebbe accaderti e che è una reazione normale alla situazione. E anche cosa puoi fare per evitarlo. La gente deve sapere cosa può fare, non solo cosa non può fare. You know, being aware of them and addressing them at a public health level. For example, you know, just even you know, creating informational pamphlets to distribute so people are aware that this could happen or this could be happening to you. Cioè, molte cose, nelle cose in quali hai controllo, dedicarsi a quelle, piuttosto che vivere in ansia pensando alle cose sulle quali non si ha controllo. Dobbiamo imparare nuovi modi di tenere testa alla situazione. Se non abbiamo più accesso a molte cose a causa dell'isolamento, dobbiamo imparare nuovi modi di fare fronte al problema. E data la situazione, la gente potrebbe non sapere come fare. La sanità pubblica o la gente che ha la possibilità di raggiungere la popolazione devono cominciare a comunicare e ci si augura che abbiano già cominciato a farlo e a dire cosa si può fare, non solo cosa non si può fare. For people that are able to reach population level, have that reach, they will have to start, or if they haven't begun in some places, hopefully, to communicate that this is what you can do, right? So instead of just telling the population what they cannot do, and that's it. This is, you cannot do this, you cannot do that, you will die, and you will transmit this, and this is all these things you cannot do. We should start thinking about what can we offer that people can do, that are supporting to them, supporting to their families, easing their symptoms. So that's one thought. And you know, virtual connection, even though it's not physical connection, and we definitely le connessioni virtuali, anche se non hanno la fisicità della presenza, sono utili. Perché sicuramente abbiamo bisogno di interazione sociale. In assenza delle forme di socializzazione consuete, almeno virtualmente ci si può connettere dal punto di vista emozionale. E la connessione emotiva è molto importante, specialmente in questa situazione. Anche se si è isolati fisicamente, non si deve per forza essere isolati emotivamente. E questa è una cosa importante da ricordare. Even for people that are not used to doing virtual connection or seeing people on their phones or on their screens, that may be an alternative for them to not feel so anxious. And also at the public health level, just start opening venues where people can get support. E sempre a livello pubblico devono esistere luoghi dove la gente possa trovare supporto. Ad esempio, non ho mai avuto impulsi suicidi, ma in questa situazione ho cominciato a pensarci, perché sono già 6 mesi che non vedo i miei cari o non facilmente. Dove vado? Chi mi può aiutare? A questo servono anche i servizi di supporto telefonico e questo non deve essere per forza a livello governativo, ma può essere anche a livello di connessione sociale, costruita dalla comunità. La comunità costruisce delle strutture che supportano la comunità stessa. Ci sono molte cose che possono essere fatte. Social networking level, right? So communities can think about creating these structures to support their own communities. You know, just phone calls, or every Wednesday we're going to just chat to see how everybody is, things like that. So it can be, there's many things that can be done. In this new job, I've been exposed to a new reality, which is the rural reality, and how these agricultural workers are undocumented. So they were... Lavorativamente mi sono trovata di recente esposta a una realtà che non conoscevo, lavoratori agricoli in zona rurale senza documenti. L'epidemia di Covid li colpisce molto di più che le zone urbane, perché non hanno protezione e sono più esposti. E inoltre ora stanno subendo la crisi economica, hanno perso le case, hanno perso il lavoro e non hanno accesso alle cure mediche. È diventato molto chiaro come la diseguaglianza sociale si sia esacerbata, sia aumentata durante questa situazione. Sia la pandemia che gli incendi, tutta la popolazione soffre, ma le parti sociali che sono già marginalizzate vengono marginalizzate ulteriormente, perché non hanno accesso a nulla. Quando senti dire che sono stati stanziati dei fondi, che ci sono dei soldi, devi sapere anche che non ci sono soldi per i lavoratori illegali senza documenti, non ci sono fondi per loro e non c'è neanche accesso alla sanità. E questa è una cosa che ho potuto vedere personalmente ed è una realtà di cui non si parla. Sai, c'è questo modo di dire che siamo tutti sulla stessa barca, che la situazione ci tocca tutti allo stesso modo, che ci siamo dentro tutti. Beh, non è vero. C'è la parte di popolazione senza documenti che è molto più duramente toccata dalla pandemia e non c'è nessun aiuto per loro e nessuna protezione. Non hanno nemmeno accesso alle mascherine. Non è vero che ci siamo dentro tutti. Well, not really. Because this population are really being affected and there's no help for them and there's no protection. They don't have access, not even to masks. So you got a problem, phone it from your per un errore informatico. Alcuni assistiti hanno ricevuto nella serata di lunedì 25 maggio un SMS che riportava il testo seguente. ATS Milano. Gentile signore, gentile signora, lei risulta contatto di caso di coronavirus. Le raccomandiamo di rimanere isolato al suo domicilio, limitare il contatto con i conviventi e misurare la febbre ogni giorno. Se è un operatore sanitario, si attenga alle indicazioni della sua azienda. Agli interessati è stato inviato un ulteriore SMS di rettifica nella giornata di martedì 26 maggio. Per eventuali informazioni è possibile contattare il numero di telefono 0285781. Ci scusiamo per il disagio. Ci scusiamo per il disagio. Ci scusiamo per il disagio. Ecco, quello che abbiamo testé sentito era il testo di un messaggio SMS mandato dalla Regione Lombardia ad alcuni suoi cittadini per occuparsi della loro tranquillità psichica. Passiamo adesso ad un caso, come si può dire, un tentativo di intervento locale abbastanza interessante. Ci spostiamo quindi dagli Stati Uniti a Milano. Siamo al telefono con Lula e Carolina della Brigata Basaglia. La Brigata Basaglia nasce in questa primavera in occasione dell'emergenza del Covid. Brigata riporta tutto il circuito di brigate solidali che si sono manifestate nel territorio del Milanese, insomma in Lombardia, e non solo naturalmente. Basaglia è un chiaro riferimento a Franco Basaglia, il maestro dell'antipsichiatria, lo psichiatra che ha ispirato la legge 180 che ha portato alla chiusura dell'ospedale psichiatrico. In un testo che ricorda Basaglia si dice di lui questo: bisogna far riemergere la soggettività di chi soffre di disturbi psichici, il che non significa affermare che la sofferenza psichica ha origine solo dalla miseria materiale, ma che esiste una miseria sociale che ci impedisce di esprimere i nostri stessi bisogni e ci costringe a trovare strade anomale e tortuose che passano attraverso la mediazione della malattia, perché ci ha impedito di esprimerci in modo immediato. Noi possiamo dire che in questa situazione particolare gli impedimenti all'espressione dei nostri immediati bisogni emotivi, psicologici, relazionali e non solo naturalmente, sono stati enormemente schiacciati e compressi. La qualcosa non può non avere avuto, come dire, un effetto sullo stato psichico generale. Chiedo intanto a Lula e Carolina che ci raccontino come nasce, quando e perché, e un pochino come era strutturata la Brigata Basaglia. Grazie. Allora, sicuramente la Brigata Basaglia nasce un po' dalla stessa frase che stavi dicendo tu in questo momento. Non si poteva pensare un'emergenza a livello proprio di salute senza includere la parte psi, no? Non solo la parte psi come psicologica, sino anche come benessere in generale, anche come emotività, anche come mondo del vissuto. Cioè, stare rinchiusa in casa non vuol dire non sentire, non pensare, non vivere la propria vita, no? Per cui come brigata, come emergenza, come volontari, si doveva pensare anche a un spazio dove l'anima poteva essere presa in considerazione. Da quel spunto, da quella domanda, e cosa facciamo con le emozioni, nasce la Brigata Basaglia. Ecco, quando? Febbraio, marzo, sì, aprile? Sì, a marzo. Ma attorno al 20 marzo abbiamo fatto poi un incontro tra di noi. Con delle persone che hanno collaborato all'inizio con la nascita della brigata, e dopodiché c'è stato fatto un momento di formazione per tantissimi volontari operatori, che è stato il primo aprile, e a partire di quel momento di formazione si è proprio costituita la brigata. La brigata come funzionava? Rispondeva c'era un numero di telefono? Esatto, su questo posso intervenire dicendo che, appunto, a differenza magari delle altre, la nostra brigata era una brigata senza territorio, perché di fatto tutte sono state svolte da remoto, no? Per cui abbiamo ritenuto che forse il miglior aiuto che poteva essere dato in quel momento inizialmente poteva essere quello di un centralino con un numero attivo 12 ore tutti i giorni, e attraverso la risposta a queste chiamate venivano poi differenziati, per mettere poi agli operatori di rispondere, venivano differenziate, no? Per cui c'erano tanti operatori che rispondevano al telefono, e poi eventualmente, se ci fosse stata necessità, necessità sarebbe venuta la presa in carico da parte di uno psicoterapeuta o uno psicologo. E la cosa meravigliosa è stata che è stata molto ampia l'adesione, soprattutto non solo da parte di psicologi, quindi il contatto con una voce, con un ascolto soprattutto, tramite la voce, anche un contatto diciamo puramente mosso da simpatia, da una forma di empatia insieme con l'altro, poteva essere un punto di riferimento, soprattutto perché di fatto essendo un numero libero, un numero aperto, molto spesso delle persone chiamavano appunto per diciamo tutta una moltitudine di motivazioni, ecco. Poi di fatto dal centralino appunto c'era la possibilità di fare questi incontri tramite diciamo con l'ausilio anche del video. Diciamo che si partiva proprio al telefono, poi eventualmente se si fosse ritenuto che la persona voleva approfondire anche un po' la questione, si poteva allora utilizzare. Diciamo personalmente abbiamo fatto anche un intervento con la cascina biblioteca di Lambrate e appunto in quel caso lì è stato necessario un supporto anche di diciamo video, e in quel caso appunto un educatore è riuscito comunque a stabilire questa connessione, per cui di fatto abbiamo cercato di andare il più possibile incontro alle richieste dell'altro, ecco, e sono state completamente, cioè tanto variegate. Ecco, arriviamo alle richieste. Di fatto voi avete costituito, dicevi, avete fatto questa formazione ad aprile. Che tipo di richiesta vi aspettavate e che tipo di richiesta avete trovato? Allora, personalmente penso che la cosa che mi ci è più sorpreso, perché dico personalmente, ma di fatto una cosa che abbiamo condiviso, è che la gente fa molta fatica, ma ha fatto molta fatica a pensarsi in una dimensione più emotiva, più relazionale. E la Brigata Vasalli aveva un compito molto chiaro, il centralino era stato spiegato molto bene cosa faceva, per cui dove uno trovava il nostro numero trovava anche la descrizione di qual era il nostro obiettivo. Invece molto molto spesso la gente chiamava e utilizzava il pretesto del pacco alimentare, no? Dopodiché gli operatori che sono stati formati, sono veramente dei ragazzi e ragazze molto, molto in gamba, riuscivano poi piano piano con il dialogo, con tutta la metodologia che era stata creata, a calarsi un po' negli aspetti più emotivi. Però noi ci aspettavamo delle telefonate molto più legate all'emergenza. La gente era come che aveva messo una specie di, aveva alzato una barriera enorme per quanto riguarda il vissuto emotivo, per cui arrivavano da noi con delle richieste molto pratiche e piano piano veniva fuori che c'era un lutto enorme attorno a sé, no? Come se non si avesse le parole per dirlo. Come se non ci fosse mai stata fatta una vera e propria educazione emotiva, come se tutto quello che è l'intelligenza molto più pratica, molto più produttiva, cognitiva, con la scuola, con il tutto, ce l'hanno provato a potenziare tantissimo, ma quella che è un'intelligenza nettamente emotiva, di consapevolezza, di ritrovo dell'io, no, in tutto ciò, è pochissimo sviluppata, per cui intanto la pancia non faceva rumore, il malessere non si sentiva, no? Era molto faticoso arrivare a una dimensione non corporea del malessere, era molto faticoso per le persone. Ecco, ma allora ti approfitto, faccio un'altra di domanda su questo: se è cambiato qualcosa con la fine del lockdown? Allora, io penso, non so poi, Caro, se tu vuoi aggiungere un pezzettino come operatrice, però sicuramente in tutto quello che era l'aspetto, la parte più clinica della brigata, sì, c'è stata una differenza, nel senso che la gente ha iniziato ad avere più consapevolezza delle proprie emozioni. C'è stata tanta paura della riapertura, non è stato un momento semplice, per cui la sensazione che io ho, ma su questo Caro sicuramente riuscirà a dire meglio, che adesso le telefonate sono più legate o al bisogno della ricostruzione della rete, perché ci sono state delle persone che sono state isolate anche socialmente, o proprio alle situazioni nettamente emotive di reinserimento nella società o di aspetti molto traumatici. Sono d'accordo, di fatto infatti, intanto abbiamo realizzato che sono diminuite le fate, quindi diciamo che poi facendo il suo corso alla vita sociale, bene o male, le persone sono ritornate ai loro meccanismi un po' diciamo adattivi quotidiani, che magari appunto potevano avere una salienza maggiore anche durante il periodo di lockdown, però di fatto hanno continuato a chiamare appunto quelle persone che erano già più coscienti di che cosa andavano a chiedere, ecco, mentre magari appunto durante il lockdown potevano ricevere chiamate diciamo la cui domanda era ambigua, andava andava approfondita, verso la fine invece erano casi già ben avviati, diciamo, nel tempo, e abbiamo provato, però noi a questo punto, finito il lockdown, abbiamo provato noi a cambiare un po' il metodo, per cui a provare a seguire la persona anche nella costruzione di rete, come diceva Lula, provando laddove è possibile a indirizzare verso realtà che già conoscevamo, se erano a Milano, provando un po' a seguire queste persone che avevano tematiche relative al lavoro, relative all'impossibilità di uscire da casa per questioni fisiche, per questioni legali. A quel punto lì abbiamo deciso di cambiare un po' la natura del nostro intervento, e non a caso adesso siamo anche noi nel periodo di transizione, per cui la Brigata Vasaglia vorrebbe in questo momento aprire anche, come dire, essere disponibile all'incontro fisico, ovviamente con tutte le tutele del caso, però tramite appunto degli sportelli che verranno ospitati in varie sedi, ecco, della città. Come avete fatto sapere che c'eravate ad aprile, maggio? Allora, sicuramente ci siamo appoggiati a tutta la grande brigata, no? Che ci hanno dedicato un spazio molto significativo, nel senso che anche loro hanno riconosciuto il bisogno, e è stato un lavoro che abbiamo fatto insieme alle compagne e ai compagni, cioè molto significativo di raccontarci, di trasmettere, anche di pensare a quali sono le parole giuste per raccontarci, no? E cosa si intendeva per cura, e in quale spazio c'era la cura nella Brigata Vasaglia, per cui siamo riusciti anche, abbiamo fatto delle cose pazzesche come i volontari che mettevano i bigliettini, cioè i volantini della Brigata Vasaglia nei pacchi, cioè ci sono stati tante strategie di comunicazione diversa, e siamo arrivati un po' ovunque, no? Per quello che, come diceva Caro, adesso nel pensarci, nella nostra seconda fase, due sono state le cose sicuramente più importanti. Prima, poter essere itineranti, perché la Brigata Vasaglia sarà sempre un spazio itinerante, non sarà un spazio di un solo territorio, perché deve essere un spazio per tutti e tutte. E il secondo punto, anche di riuscire a pensare la cura nella sua orizzontalità, per cui andare oltre alla clinica tradizionale. La brigata cura con la rete, cura con il territorio, cura con stare nel qui ed ora, cura con il benessere del vicino. E tutte queste sono cose molto, molto importanti, che ci hanno aiutato tanto a raccontarci, perché sono parole molto semplici, no? Da scambiare con i vicini di casa, con le persone che seguivano i gruppi delle brigate. Esatto, e questo, se posso aggiungere, seguiamo completamente la vocazione basagliana, diciamo, di socializzare un po' la cura, no? Per cui di portare fuori dallo spazio un tempo manicomiale, oggi psichiatrico, però in qualche modo sempre ospedaliero, cioè cercare di rendere il più possibile. Vasaglia parlava appunto delle comunità terapeutiche, ma non in senso comunità chiuse, messe come dire nella periferia delle città, ma proprio quella comunità che anticipa quella che poi viene a costituirsi come società civile. La comunità di per sé ha un potenziale terapeutico. L'idea è proprio di attivare questo, di andare in quella direzione lì. Sì, che poi a ben pensare è quello che è mancato anche dal punto di vista della medicina, proprio della parte sanitaria fisica, ecco, in qualche modo, cioè la medicina, un territorio che sapesse capire che cosa gli stava succedendo. Almeno io penso che per la Lombardia questo è un'esperienza che deve essere molto d'insegnamento. Avevamo fatto questa riflessione rispetto a Milano, e anche Milano riscoprirsi fragile, nel senso non avere timore anche di riscoprire questi tratti fragili e provare a lavorarci, ad affrontarli. Volevo chiedervi adesso, uscendo un attimino, cioè allargando lo sguardo al di là del vostro panorama dell'attività della brigata, se avete un'opinione su quella che è la situazione in generale, la paura. Prima dicevi la paura era tanta, ma c'è tanta paura ancora adesso, eh? Totalmente sì, c'è tantissima paura ancora adesso, c'è una paura che sta prendendo anche una forma di normalità, per cui diciamo che ci sono dei grandi cambiamenti in vista, no? Cioè, io sento, li vedo nel mio lavoro più clinico, più tradizionale, li vedo nell'incontro con le brigate, e ci dovremo adattare che ci sia una seconda situazione di fragilità più legata non tanto agli aspetti sanitari, sino psichici, e il convivere con il distrutto distruggere questa illusione di essere indistruttibili, no? Per cui ad arrivare a far la pace con la nostra vulnerabilità, con la nostra percezione anche di mortalità, no? Di non poter avere tutto sotto controllo, per cui questo super uomo, super donna che crolla davanti a un virus, no? Cioè, un po' come questo gioco dell'elefante e la formica, no? Per cui tutta questa grandezza e superiorità non era nient'altro che tanta aria attorno a noi, per cui tornare a una dimensione di umiltà, cosa che secondo me sarà la prossima parola in qualsiasi intervento e lavoro clinico, tornare all'umiltà come uno dei punti più di coraggio e di riscoperta del sé più grandi nei prossimi momenti, perché non siamo abituati, pensiamo alla parola umiltà molto legata agli aspetti economici, ma invece io adesso in clinica la sto lavorando tanto legata alla felicità, all'amore, no? Alla costituzione, cioè al pensarci nelle piccole cose, perché da quando è successo questo tutto il grande, tutta questa cosa gigante, tutta questa visione degli obiettivi molto molto futuri, e si è un po' persa, no? Tutto questo ideale di Dio son per sempre, per cui dobbiamo stare nel qui ed ora legandoci a quelle cose piccole e molto molto profonde che ci faranno essere felici, però un grande cambio di paradigma, sai? Esatto, vorrei anche aggiungere, ad esempio, io, come dire, questo come commento personale, mi aspetterei che, diciamo, questi mesi, siccome è stata un'emergenza durata mesi, ti possa ricordare il fatto di non aspettare l'emergenza per andare a lavorare sulla solidità delle reti, sulla possibilità anche diciamo della psicologia, di quello che riguarda tutta la dimensione della salute mentale, di non intervenire soltanto quando, come dire, il caso è conclamato, ecco, cioè di provare a trovare delle forme anche quotidiane di supporto, ecco. Irrobustire la struttura territoriale in qualche modo, e anche forse la capacità del territorio di farsi carico, penso io, no? Sì, esatto, che infatti è stato quello che è mancato, Basaglia è mancato purtroppo, forse troppo presso prima di, diciamo che l'idea della legge 180 non sia ancora del tutto compiuta, perché si sono state create tutte le varie strutture territoriali, ma poi di fatto queste strutture non parlano al territorio. Diciamo che si vuole andare un po' nella direzione di costruire delle reti umane, prima di tutto, prima che istituzionali. Molto bene. Come vi si trova? Allora, noi in questo momento, come diceva prima Caro, stiamo cambiando forma, però il nostro centralino è ancora attivo, per cui perfettamente ci potete cercare in Facebook. Adesso la dimensione del centralino è più una segreteria telefonica, per cui la gente lascia il messaggio e l'operatore ricontatta nel giro di 2 giorni la persona per fissare un appuntamento, per chiacchierare, per vedere cosa possiamo fare insieme. E prossimamente ci saranno dei grandi cambiamenti dove la parte degli operatori, per cui il primo incontro con la brigata avrà un suo sportello itinerante, poi sulla nostra pagina Facebook Brigata Vasaglia metteremo tutte le informazioni, e invece la parte di clinica sarà in un spazio fisico più permanente, un po' per rispettare le dimensioni di setting che nella clinica sono tanto importanti. Va bene, ora se volete aggiungere qualcosa. Esatto, i progetti sono sempre in divenire, anche stiamo pensando ai progetti con le migrazioni, come sul carcere, sulla creazione di reti, per cui insomma è tutto ancora in divenire, speriamo di mantenerci in contatto. Sì, sono tanti tasselli che vanno incastrati l'uno con l'altro. Allora io vi vorrei invitare a tutti, a tutti chi ha voglia a partecipare, anche a scambiare un pensiero, che la Brigata Vasaglia è un spazio di ascolto e di confronto, per cui qualsiasi cosa sia diversa, qualsiasi cosa sia in più, per noi è benessere, no? Perché partiamo dal presupposto che creare rete, perché è il posto ideale per ascoltarci, per cui per noi sarà molto importante la nostra linea di ascolto, che nel momento è solo aperta in forma di centralino. Il numero di telefono è 02823 96915, c'è una segreteria telefonica aperta che ci chiama, verrà ricontattata, per cui se mandate messaggi su Facebook anche quelli li leggiamo in continuazione, perché abbiamo proprio un gruppo molto forte di persone che dedica il tempo proprio a mantenere la comunicazione attiva, per cui vi aspettiamo sicuramente. Perfetto, grazie mille allora e a presto. Mon banquier pense que j'aurais besoin que l'on m'aide. Tandis que mon psy dit que j'aurais plutôt besoin qu'on m'aime. Le temps qui passe nous mène toujours face à nous-mêmes. Si ce n'est pas moi qui résoudra mes problèmes, on m'a dit tu prends trop la tête. Fais de mieux voir combien la vie est belle. La vie t'ouvre les bras, je suis dit à ça, la vie est belle. Peut-être pour toi qui vis comme dans un rêve, vêtu d'or et de soie. Architecte ou médecin, je tape à l'usine, mon boss me voit comme un vaurien. Papa m'a dit ce n'est pas un métier de musicien. Laisse-moi fermer les yeux, au moins jusqu'à demain. On m'a dit tu prends trop la tête. On m'a dit tu prends trop la tête. Essaye de me voir combien la vie est belle. La vie ouvre les bras, je suis dit à ça, la vie est belle. La tête, c'est de mieux voir combien la vie est belle. La vie t'ouvre les bras, je me suis dit ah ça, la vie est belle. Peut-être pour toi qui vis comme dans un rêve, vêtu d'or et de soie. Passiamo adesso a un contributo da una testimonianza di una persona che è direttamente esposta al pubblico sul territorio e in questo caso si tratta di Domenico Edicolante. Buongiorno, buonasera Domenico. Siamo all'edicola di Domenico. Siamo qui perché è successa una cosa interessante. Domenico, ci raccontavi un po' di tempo fa di uno degli effetti del, diciamo, del periodo della pandemia, cioè del fatto che la gente mentre viene a fare una ricarica telefonica, ma ti lascio la parola. Niente, praticamente succede questo, che quando la gente arriva, l'effetto mascherina soprattutto, è come se le persone perdono la memoria, cioè devo aiutarle e non si ricordano il numero, non si ricordano il PIN del bancomat. Alcune volte sono un attimino un po' così, dunque io devo, signora cosa ha bisogno, la pian pianino, con calma, devo tornare, diciamo, nei loro passi così e cercare di dirgli cosa ha bisogno, eccetera. E secondo me proprio il fatto stesso che la mascherina è come se non gli arrivi ossigeno al cervello, è come se gli manca aria, una cosa così. Ma a livello psicologico probabilmente. Può essere anche a livello psicologico. Sono un po' spaesati, visto che è una cosa nuova, magari mi chiedono ma Domenico così chissà dove andremo a finire, tutte cose un po' così. E questa cosa succede solo da quando c'è la mascherina però? Sì, soprattutto questo, ho notato questo. E tuttora, adesso che stiamo ritornando, è già un paio di giorni che allora si era, diciamo, migliorata verso giugno, metà luglio, che la gente andava in giro senza mai. Adesso è ritornato lo stesso problema. Dunque secondo me è proprio la mascherina. E questo succede solamente alle persone anziane o anche ad altre? Anche più giovani, dai 40 in su. Dai 40 in su, ho notato anche questa cosa, dai 40 in su. Dimenticano, non so, magari il portafoglio, le chiavi qui, o dimenticano qualcosa, o arrivano, non si ricordano cosa gli ha detto la moglie, devono tornare in macchina 2-3 volte. Una cosa incredibile. Grazie. Ok, prego, grazie a voi. Ecco, sia Claudia che Lula e Carolina hanno affrontato la questione di un intervento locale, cioè di quelle che possono essere gli strumenti le modalità di risposta ad una situazione di questo genere dal punto di vista del territorio. Ci spostiamo adesso sul piano sanitario e vogliamo rilanciare due interventi che sono stati fatti alla presentazione il 23 settembre al Centro Sociale Conchetta, alla presentazione del libro Lo spillover del profitto, capitalismo, guerra, epidemie, che è uscito adesso, proprio un paio di mesi fa, a cura della Calusca City Lights, in edizioni Colibrì. Questi due interventi sono uno di Andrea e uno di Pino e riguardano uno, il primo, proprio come dire, la questione della medicina del territorio di cui si è tanto parlato e Andrea, medico, entra un attimo nella specifico e dettaglia esattamente cosa si intende, diciamo, e cos'è il senso della medicina del territorio e quindi del locale dal punto di vista della salute fisica. Pino invece fa un intervento su un argomento molto poco trattato ma importante, che è quello, come dire, dell'agibilità sindacale e politica all'interno delle strutture ospedaliere sottoposte alla emergenza e a tutti nota. Ecco, per cui andiamo adesso con questi altri due contributi che riguardano la parte sanitaria. Cos'è che è mancato in questa fase qua? È mancata la medicina del territorio. Cioè, su questo non c'è dubbio. Perché è mancata la medicina del territorio? Beh, perché in maniera scientifica in Lombardia più che in altri posti hanno praticamente demolito tutto ciò che aveva a che fare con la cura e che non comportava guadagno, che non comportava plusvalore. Cioè la medicina territoriale, ma anche i servizi di base, i servizi per le tossicodipendenze, i servizi per il disagio mentale, i servizi per gli anziani, i servizi per i disabili, cioè tutto ciò che non faceva soldi non è stato considerato da finanziare. Si è passati a una sanità ospedalocentrica in tutta Italia, ma in Lombardia, ribadisco in maniera particolare, Formigoni è stato quello che ha spinto di più da questo punto di vista, con l'accreditamento acritico di qualunque struttura privata, si è fatto sì che la sanità diventasse da un percorso che doveva rappresentare la soddisfazione di un bisogno fondamentale come quello della salute, ha una macchina per fare soldi. Il fatto di avere accreditato tutta una serie di strutture con una spesa peraltro enorme ha fatto sì che si dovesse tagliare su tutta quella che era la medicina di base, la medicina territoriale. E cos'è che è mancato nel momento in cui c'era da bloccare l'epidemia? È mancato proprio questo. Mancavano le persone che andassero a fare i tamponi. Hanno scientemente ridotto il numero dei tamponi, un po' perché non volevano chiudere le attività economiche, ma un po' anche perché non c'erano le strutture. Hanno costretto le persone che non stavano bene o a morire da soli in casa o andare a intasare i pronti soccorsi degli ospedali, che sono diventati dei nodi di contagio. Gli ospedali, le RSA, sono diventati dei punti, e pronto soccorsi anche, perché la gente aveva come unica possibilità quella di rivolgersi lì. In altre situazioni hanno fatto scelte diverse, in questo la Lombardia è stata la peggiore da tutti i punti di vista, ma perché è stata la peggiore? Perché dove la privatizzazione della sanità, la monetizzazione dei percorsi di cura è stata ad un livello più alto. In altri posti ci si attrezzava per andare a fare i tamponi a casa delle persone che non stavano bene, Piacenza non è così lontana, a fargli l'ecografia polmonare, che ha una buona sensibilità per un sospetto diagnostico di questo tipo, e si poteva fare diversamente. In ogni caso, comunque, questo è un problema più ampio su cui avevamo già cominciato a ragionare, perché in realtà quello che ha fatto la pandemia è stato quello di scoperchiare, di rendere evidente una situazione su cui si stava già ragionando. L'avevamo ragionato anche in una serie di incontri all'interno dell'ambulatorio popolare con i compagni di Saronno, che adesso vedo anche qui, poi con degli altri compagni, altre situazioni, per cercare di andare a capire come mai l'accesso alle cure stava diventando così difficile, come mai la parola sanità stava acquisendo un significato così diverso, che si allontanava sempre più dal percorso, dal concetto di cura, e si avvicinava sempre di più al discorso del profitto. Il fatto di accreditare gli ospedali privati non è semplicemente... La critica che facciamo a questo aspetto non è semplicemente che non ci piace che la gente lucri sulla salute, ma anche sul fatto che una cosa del genere è anche più costosa per la comunità, per tutti, da una parte, e dall'altra è anche meno efficace, come la pandemia ci ha dimostrato. Dà un sacco di prestazioni inutili, perché non c'è nessuna programmazione sul territorio, su quelle che sono le necessità, ma c'è solo l'incentivo a fare più esami, a dare più prestazione, perché la macchina deve andare al massimo, la macchina deve andare al massimo, e anche a dispetto della qualità. In alcune strutture private gli operatori sono così sotto pressione perché ti chiedono un esame ecografico ogni 20 minuti, perché devi essere produttivo, perché praticamente tu devi fare, non è la qualità della prestazione che dai, è il numero delle prestazioni e quello che incassi che conta. Questo è la cosa su cui bisogna ragionare, la cosa su cui bisogna raccontare in giro, e che la pandemia ci ha solo un po' disvelato, perché è caduto il velo che tentava di coprire tutte queste menzogne. E purtroppo tutto il welfare comunque non è solo il concetto di sanità, non è solo la possibilità di accedere alle cure mediche, che ruota all'interno di una filosofia che tende a favorire il profitto, perché per esempio nei ragionamenti che abbiamo fatto anche al nostro interno dell'ambulatorio popolare, abbiamo fatto anche un ragionamento su quella che sono anche le politiche del welfare, quelli che sono le cosiddette pensioni integrative, quelli che sono i contratti di lavoro in cui i lavoratori e tanti sindacati, non solo i confederali peraltro, si sono messi a contrattare di lasciare giù qualche soldo di stipendio per una pensione integrativa. Perché? Perché comunque il mondo delle assicurazioni fa girare soldi, ci sono spinte da questo punto di vista, e senza che ci si renda conto, perché poi alla fine chi ha queste integrazioni, sanità integrativa, pensione integrativa eccetera, dice vabbè, abbia strappato qualcosa dal contratto, ma non si rendono conto che questi sono soldi in meno che hai contrattato per il tuo lavoro, questi sono soldi esentasse su cui il datore di lavoro non paga le tasse, questi sono soldi che vanno a distruggere quelle che sono le potenzialità del servizio pubblico, perché a furia di accreditare tutti i privati hanno chiuso progressivamente tante strutture pubbliche che non avevano l'obiettivo di lavorare al massimo anche a scapito dell'economia, ma che potevano avere anche l'obiettivo di fare all'interno di un territorio un buon progetto di cura e di prevenzione. Ecco, io questa è la cosa che vorrei sottolineare. Quello che abbiamo vissuto è stato un qualcosa che ha messo in luce questa pandemia, che ha messo in luce un sistema che non può funzionare, che stava funzionando ma per solo per dare i profitti a chi ci investe i soldi. Ma la cura è sempre una cosa molto di là da venire. Tenete presente, ecco, tenete presente che ci sono diverse, sono state diverse modalità per cui la cura risulta meno accessibile. Da una parte le lunghe liste d'attesa, dall'altra i super ticket che soprattutto nella nostra regione sono stati elevatissimi. Quando c'è un super ticket da pagare, che per 10 euro in più hai un privato calmierato che ti dà la stessa prestazione senza andare a senza lunghe liste d'attesa, e tu vai dal privato calmierato che quindi guadagna tantissimo. Cioè il centro Sant'Agostino è per esempio una situazione tale a cui molte persone che conosco sono anche andate, ma perché davvero un'ecografia costa 5 euro in più privatamente che pagare il ticket. E quindi un condensato di liste d'attesa lunghe, di prestazioni, di ticket molto elevati da pagare, ha fatto sì che la sanità pubblica fosse sempre meno accessibile, fosse favorita anche una sanità privata che magari non è quella rampante dell'Humanitas, del San Raffaele, della San Donato, ma anche di piccole situazioni, che però ha come obiettivo quello di fare soldi e non ha quello di dare un servizio pubblico. E quindi ovviamente non si può delegare a situazioni di questo genere quello che è un percorso, come un percorso di cura, come la pandemia ha dimostrato. In quei momenti i servizi medici di base non c'erano, servivano i poliambulatori territoriali, li hanno chiusi tutti, servivano degli operatori che andassero a casa a vedere le persone, a fare i tamponi. Non c'era, perché non c'erano più operatori che lavorassero sul territorio, erano tutti negli ospedali. Quindi questa è una delle ragioni per cui poi la pandemia, e soprattutto in Lombardia, si è sviluppata così tanto. Perché andare in ospedale con un'infezione delle vie respiratorie come il Covid significa far diventare l'ospedale un nodo di trasmissione della malattia. Questo è, ed era semplice, bastava, non ci voleva tanto, bastava avere presidi territoriali, presidi che andavano a avere le strutture di protezione, i dispositivi di protezione individuale, cosa che purtroppo non c'era. Volevo sottolineare un altro aspetto, e quello è un aspetto delle RSA. Molti hanno presente quello che è successo agli anziani ricoverati, quanti sono stati morti, eccetera. Però bisogna ricordare anche quanti sono stati i malati e anche alcune vittime di giovani operatori sanitari che lavoravano lì in maniera precaria, magari passando da una struttura all'altra perché non avevano un contratto ma avevano il lavoro in affitto, e io personalmente tanti di questi, anche tra l'altro molti anche stranieri, mi ricordo molti sudamericani, li abbiamo visti soffrire tanto, e alcuni li abbiamo anche persi. Per cui bisogna ricordarsi anche questa cosa, che il lavoro in affitto, il lavoro precario è stato anche una causa di spandimento della malattia. Non solo le politiche dissennate della regione che voleva mettere sotto il tappeto la cenere, mandando per liberare i posti negli ospedali, mandando le persone malate in RSA. Non è stato solo questo, è stato anche il fatto che le RSA hanno avuto una gestione assurda, ma non dal momento della pandemia, anche prima, quando lavorano operatori sanitari pochi per tanti pazienti, sottopagati, spesso col lavoro in affitto. E infine un'ultima cosa che volevo sottolineare. La pandemia, la malattia di Covid, ci ha fatto dimenticare che c'erano anche altre malattie. Non sono andate in vacanza I malati cronici sono stati abbandonati perché è stato decretato che tutto era sospeso tranne le urgenze. Ma ci sono malattie croniche che, se si perde un po' la sorveglianza, rischiano di evolvere, di sviluppare complicanze e di trovarci poi ad avere a che fare con problematiche molto più importanti. Come per esempio io lavoro nel campo dell'epatologia, i pazienti con una malattia cronica di fegato, se non seguiti regolarmente nel tempo, possono arrivare a una diagnosi non più precoce di epatocarcinoma. Cosa vuol dire? Vuol dire che se c'è stata una sorveglianza adeguata, arrivi a fare una diagnosi precoce con un problema piccolo così. Se arrivi a fare una diagnosi tardiva, il problema è più grosso e a volte è più difficile da trattare e a volte non si può più trattare. Quindi un'altra cosa che volevo sottolineare è quella. E cosa ha comportato questo? Ha comportato che adesso noi operatori di tutti i tipi, ci stiamo spaccando le corna per recuperare il tempo perduto, perché ci stiamo ammazzando anche di lavoro, perché per alcune situazioni abbiamo cercato di mantenere il counseling, ma non perché c'è qualcuno che l'ha organizzato, perché abbiamo gestito praticamente in maniera quasi autonoma, autogestito da parte di alcuni di noi un rapporto diretto con i pazienti, perché questi telefonavano, nessuno gli aveva organizzato un centralino, era tutto abbandonato, no, richiami più tardi, adesso c'è l'emergenza Covid. Alcuni di noi, alcuni che l'hanno fatto volontariamente, da studenti, da giovani laureati, alcuni professori universitari anche, che in quel momento non stavano insegnando perché l'università era chiusa, hanno dato vita a questa specie di numero che ha permesso quantomeno di mantenere un contatto, ma l'istituzione zero. Questa emergenza ha fatto sì che siamo tornati indietro anche più di 20 anni per quanto riguarda la perdita dei diritti e delle conquiste sindacali. Cioè questo, quello che sta avvenendo in questo periodo è disastroso per tutti, perché il problema è che da quando è stato dichiarato lo stato di emergenza sono state vietate tutte le manifestazioni di carattere anche sindacali e sociali. Per esempio gli organismi che rappresentano i lavoratori, cioè la RSU, da quando è successa l'epidemia non si è potuta più incontrare, non ha più potuto affrontare i problemi che ogni giorno venivano avanti, e anche i problemi abbastanza seri, no? Perché all'inizio si andava proprio a tentoni, nessuno sapeva dare indicazioni, no? Però mi ricordo che l'unico atto che è uscito per primo per quanto riguarda il San Paolo e il San Carlo era una nota che riprendeva una disposizione regionale che diceva che è vietato far uscire notizie al di fuori della struttura pena conseguenze disciplinari se non licenziamenti. E questo è il primo atto che è stato fatto in piena epidemia, unito al fatto che molti tamponi sul personale medico e sanitario non venivano effettuati, ma non venivano effettuati per la semplice ragione che il personale è carente e che se venivano individuati positivi dovevano essere messi in quarantena, e quindi in quel modo tu andavi ad accrescere la carenza del personale che mancava. Quindi è stato anche in modo premeditato il fatto che molti medici e molti operatori si siano ammalati e molti deceduti. Cioè è stata la categoria più bersagliata, come diceva Andrea. Cioè i medici attualmente sono 178 i morti fra il personale medico, 44 fra gli infermieri, più numerosi contagiati che come percentuale supera tutte le altre categorie, che va dal 10 al 12%. Quindi, unito al fatto che se da una parte tutta una stampa ci definiva eroi, però nella sostanza anche adesso non è cambiato nulla, anzi sta peggiorando, cioè dal punto di vista delle perdite dei diritti sindacali. Adesso per sopperire la mancanza di personale stanno obbligando il personale a svolgere turni di 12 ore consecutivi, stanno eliminando la mensa per i turnisti, cioè stanno attuando tutta una politica che ci porta indietro di tanti anni, addirittura negli anni 50-60 addirittura. Stiamo andando incontro a un nuovo schiavismo fra un po', e il clima di terrore si sente all'interno delle strutture degli ospedali, si sente proprio perché a volte hanno paura di manifestare le proprie idee, hanno paura di dire la loro, perché hanno paura di subire delle conseguenze, anche perché le forze sindacali che ci sono non è che hanno brillato per il loro, diciamo, interessamento per quanto riguarda gli interessi dei lavoratori. Anzi, molti si sono schierati sempre con le dirigenze, hanno eliminato le rappresentanze unitarie, cioè le RSU dai posti di lavoro, addirittura da noi hanno eliminato anche gli RLS, che sono i rappresentanti lavoratori per la sicurezza. Cioè il nostro direttore voleva lui nominare i vari rappresentanti della sicurezza, e lui voleva decidere come ha deciso, e tutto sta avvenendo sempre in modo unilaterale, cioè non c'è più la contrattazione, non c'è più forma di protesta, non c'è più assemblea che si possa fare per queste conseguenze contenute che derivano da questi decreti che interessano poi tutti noi anche fuori dall'ambiente di lavoro, che sono quelle del distanziamento piuttosto che eccetera eccetera. Però per quanto riguarda poi le assunzioni di personale, quelle non se ne parla. Le poche che arrivano, e sono 10-20, arrivano tutte da agenzie interinali. Abbiamo tutte le strutture carcerarie ormai, perché il San Paolo fanno capo tutte le strutture carcerarie, quindi Opera, Bollate, San Vittore, eccetera, eccetera, e sono tutte agenzie interinali. Non c'è personale fisso di ruolo da nessuna parte. È per questo che c'è la precarietà, è per questo che la gente anche ha timore ad esporsi. E questo Covid qua lo sta aumentando, e quindi credo che bisognerà correre ai ripari, ma credo che bisognerà fare altre formule da attuare, da mettere in campo, perché non si può più andare con i vecchi sistemi, perché la situazione è cambiata completamente secondo il mio punto di vista. Quindi bisognerà fare qualcosa di più incisivo, più conflittuale, credo, perché se si rimane al livello delle petizioni, delle firme, delle manifestazioni, nei crismi dei decreti che sono stati emanati, credo che non si vada da nessuna parte, perché proprio la situazione per quanto riguarda la sanità, che tutti dicono e hanno riconosciuto che è stata proprio quella, che la sanità pubblica è quella che è venuta a mancare, ma se non ci mettiamo tutti a controllare l'operato di questi dirigenti, perché non dimentichiamo che ancora oggi abbiamo una legge del 78 che è ancora valida, il Servizio Sanitario Nazionale, solo che poi dopo è stato stravolto in tanti microsistemi regionali, per cui ci sono ogni sistema diverso nelle varie regioni, però il caposaldo, quello nazionale, esiste ancora, e per cui sono previste delle formule di controllo e quindi di organismi di lavoratori, del quartiere, piuttosto che altre situazioni che controllano l'operato anche dei vari direttori generali, perché non si può che la programmazione sanitaria del territorio venga decisa a tavolino e non vengono ascoltate le esigenze reali che ci sono in quel quartiere, piuttosto che in quello spicchio di città o nella città stessa o Lombardia. E non si può pretendere che chi faccia sanità sia solo il direttore generale, l'assessorato alla cultura e la giunta regionale, perché l'interesse della la salute è qualcosa che riguarda tutti, prima di tutto. Quindi siamo in Lombardia 9 milioni e mezzo, se non 10 milioni, quindi se non ci prendiamo a cuore questo problema ci fanno fuori, quindi invito a far sì che questo problema diventa un argomento prioritario da affrontare anche in varie situazioni, perché è grave. Io sto adesso faccio parte di un comitato di difesa della sanità pubblica del San Paolo e del San Carlo, che è la legge regionale che è quella che poi ha fatto mostrare tutti le varie falle nell'assistenza, nella cura, nella prevenzione rispetto al Covid. La stessa legge regionale è quella che poi ha approvato la legge sui gestori, sui cronici, nel senso che la giunta ha esautorato il medico di base, non lo tiene più in considerazione e appalta l'assistenza ai malati cronici, che come numero si va intorno ai 3 milioni e mezzo quasi in tutta la Lombardia, ha appalto questo sistema di assistenza a dei gestori che sono enti a volte anche astratti, perché possono anche non risiedere in Italia, dei gestori che possono dare assistenza e raggruppando anche una enormità di pazienti fino a 200.000 pazienti, quando invece oggi un medico di base ne arriva, non so quanti voi, 1.500, 2.000, 1.500 appunto. Invece col gestore si potrà avere tipo una società anche che non c'entra un cavolo con il settore sanitario, che prende in mano questo tipo di intervento che prevede che sarà lucrativo, come penso che sia lucrativo, perché è facile poi, avendo a disposizione un così numero di pazienti, poi programmare in modo di andare a risparmio, magari sorrisicare su una data di un controllo, piuttosto che contrattare con gli ospedali un pacchetto di esami diagnostici o radiografici, eccetera, eccetera, e quindi il guadagno è sì consistente. Bene, questa stessa legge qua aveva anche previsto la chiusura di due ospedali, l'ospedale San Carlo e l'ospedale San Paolo. Questo con la legge del 2015, approvato in agosto, solito schema estivo. Quindi prevedeva la chiusura di questi due ospedali e la creazione di un altro ospedale nuovo, più piccolo, lì in fondo al Parco Teramo, alla Barona. Bene, noi abbiamo creato un comitato che è proprio nato qui all'interno di Conchette, che poi si svolge in quartiere, soprattutto in Barona. Ecco, un comitato che fin dall'inizio si è opposto a questo progetto qua, perché si è opposto anche che venisse diciamo smembrato sia fisicamente che anche fra il personale, e abbiamo avuto ragione, perché se si andava in porto sto progetto, questa emergenza che c'è stata, se non c'erano i due ospedali San Paolo e San Carlo, qui si vedeva malissimo la situazione a Milano. With another guy, his arm around her like it used to be with me. Oh, it makes me want to die. Except the fact she's chosen him and simply let them be. Whoa, well, here it comes. Here comes the night. Sempre parlando dei lavoratori nell'ambito della salute e della medicina, qualche tempo fa, nell'inframmezzo tra il primo lockdown e adesso, mi è capitato di conoscere e avere una chiacchierata con uno di questi lavoratori, e ho pensato di registrarla, perché quello che gli è capitato, insomma, può anche essere emblematico per la situazione di tanti altri posti simili. Ok, ciao a tutti, eccoci qua, intervista speciale a un operatore sanitario del RSA che nei tempi del Covid si è trovato a dover fronteggiare questa minaccia. A te è successo per caso di contrarre questo virus, visto che non c'erano i dispositivi di protezione? Sì, l'ho proprio mentre lavoravo, non ho la certezza perché vabbè era l'ultimo periodo del lockdown, si avvicinava il 4 maggio, no? La data fatidica della fase 2. E avevamo i primi casi all'interno della struttura, non nel mio reparto dove lavoravo, no? Però nel reparto dove sono andato a fare un doppio turno due volte, perché i dipendenti del reparto erano assenti per malattia, c'erano tante assenze. E quindi c'era anche chi copriva poi tutti gli altri. Esatto, indipendentemente dal reparto, insomma è stato un periodo intenso dal punto di vista. Ma erano assenti perché avevano, questo vabbè, sono dati sanitari sensibili, non li sappiamo, non si sanno, però perché c'erano tante malattie, proprio in quel reparto tanti operatori malati. E ma quindi lì, va bene, poi io sapendo, insomma, tutto il reparto risultò positivo. Ma tornando un po' al tuo caso invece. Ecco, tu hai detto che ti è successo di contrarre il virus, e che cosa è successo in seguito? Sei stato licenziato? Sei stato messo in cassa integrazione? Hai dovuto fare una quarantena? Non so. No, allora io ho chiesto al mio lavoro di farmi il tampone. Ho chiesto al mio lavoro di farmi il tampone perché ho avuto. Mi sono accorto di non percepire più il gusto e ho perso totalmente l'olfatto. Allora chiamai il mio medico, gli dissi questa cosa, spiegandogli che comunque lavoravo in un RSA. Lui non era un beh, di per sé per me non sono sintomi riconducibili al Covid, quindi se vuole può andare al lavoro. Ho detto no, non mi sembra troppo il caso, perché comunque c'erano tante testimonianze che lo riconoscevano come uno dei sintomi. Poi in particolare non mi era mai successo neanche nei peggiori raffreddori, quindi Ho detto, vabbè, no, ho chiamato il mio lavoro e ho chiesto di fare il tampone urgentemente per questa cosa. La mia... A tue spese? No, no, a spese loro. Ah. Il problema è che per la mia capa, io, quello era un chiaro sintomo. Nonostante, cioè, il mio medico era stato un po', secondo lei, superficiale a farmi mandare in giro. Ok. Cioè, doveva lui mettermi in malattia, no? Poi in realtà la mia direttrice del lavoro lottava affinché io mi avviasse il mio medico la pratica di infortunio sul lavoro. Allora ho fatto il tampone in struttura e sono risultato positivo. Il mio medico mi ha fatto un certificato di malattia di 2 settimane, non mi ha aperto la pratica di infortunio, insomma, nonostante fosse stato riconosciuto anche dalla mia datrice di lavoro come infortunio sul lavoro. E niente, va bene. Allora dopo 5 giorni mi arriva un messaggio del comune di Milano dicendomi... Sul numero di cellulare? Sì, dall'inizio della malattia, dicendomi che il servizio 020202, insomma, del comune di Milano mi dava la possibilità di richiedere la spesa online e che qualcuno me la veniva a consegnare, visto che non potevo più uscire da 5 giorni. Certo, sarei morta di fame nel mentre se avessi avuto il frigo vuoto, però fa niente. No, adesso farlo da solo, digiuno, se fossi stato da solo a Milano, no, non avessi vissuto a casa dei miei genitori, però fa niente, dai, qualcosa è stato fatto dopo 5 giorni. L'acqua di Milano si può bere, quindi dai. E tu poi quanto tempo sei rimasto lì bloccato in casa così? 6 settimane. Cioè, senza mai uscire neanche? Senza mai uscire in una casa condivisa con i miei genitori, quindi isolato in una stanza, non potevo, cioè quando andavo in bagno dovevo disinfettare il bagno in maniera molto maniacale e basta, insomma, è stato abbastanza tosto. Comunque no, 5 giorni. Anche con i genitori arriva... tu non condividevi, cioè non avevi rapporti? No, insomma, no, ma quello li avevo già sospesi da un po', okay, visto... Okay. Visto insomma l'ambito lavorativo, no? Il contesto lavorativo. E niente, comunque dopo 5 giorni appunto mi arrivò quel messaggio del comune di Milano dicendomi che erano disponibili. Nello stesso pomeriggio mi chiama poi la polizia locale e facendomi un'intervista, dicendomi quale fosse la mia professione, e dopodiché mi ricordavano l'importanza del fatto che io rimanessi chiuso nella mia stanza, perché ero comunque, qualora non avessi rispettato le misure restrittive sanitarie, avrei violato la legge e avrei rischiato anche comunque il carcere, anche perché comunque permette in insomma, cioè nel senso che potrebbe ricadere, ti hanno detto che questa cosa potrebbe perché ricadere perché violi fortemente, sì, fortemente l'articolo 32 della Costituzione, quindi non, come cittadino non stai rispettando la salute della collettività. E quindi insomma, e poi dopo circa un mese, diciamo, ho avuto il primo, dopodiché non l'ho più sentiti, a parte nell'ultimo mese che sono venuti insomma a fare dei controlli che rispettassi appunto queste misure restrittive, venendo appunto a casa e controllando che in quel momento mi trovavo a casa. In realtà ma solo, cioè, non ci siamo visti, però è venuto fuori dalla mia porta, si è accertato che fossi in casa, così insomma. Ah, non sei limitato a citofonare, a sentire la tua voce? No. E poi siamo rimasti al telefono, abbiamo... E quindi ti hanno fatto un controllo a casa? Sì. Sì, e dopodiché, allora io mi hanno detto, vabbè, se avessi seguito tutte le regole, bla bla bla, mi hanno detto che appena avrei avuto i 2 tamponi di controllo che erano stati insomma, programmati, di inviarli all'email della persona che era venuto, non so quale grado avesse, con gli esiti dei 2 tamponi. Ok. Io, come cittadino, sempre che se avessi vissuto da solo, senza i miei genitori, in una casa con internet, eccetera, non so esattamente come avrei comunicato con questo, però va bene. Ho detto sarà possibile. Ma vi siete sentiti anche per telefono proprio, sì? Ci siamo sentiti sì per telefono. E poi mi ha richiamato per sapere, ehi, hai avuto i risultati? Qualche giorno dopo che avevo fatto i tamponi. Peccato che quei risultati non arrivavano, dovevano arrivare al medico mio di famiglia, il mio medico di medicina generale, ma in realtà non sono mai arrivati. Perché quando sono i risultati del tampone non sono arrivati. No, ma è arrivati il secondo. Allora sono andato a fare i tamponi all'ospedale e mi hanno detto che i risultati sarebbero arrivati entro 48 ore sulla mail, direttamente sulla mail del mio medico di medicina generale, quindi il medico di base. Peccato che questi risultati non sono mai arrivati a lui, e anzi sono stato io a doverglieli inviare, perché dopo una settimana chiamando questo ospedale, nonostante avessi già chiamato, mi avevano già confermato che i risultati loro non li stampavano, ma sarebbero arrivati al mio medico, chiamandoli, sollecitandoli dopo una settimana, mi hanno detto: ah sì, da ieri la ATS ci ha dato, quindi la regione ci ha dato l'opportunità di stampare i referti. Okay. Referti che però io in teoria non potevo andare a ritirare, perché la ATS mi aveva autorizzato per quella data e per quell'ora, uscendo con un'autocertificazione dove io dichiaravo esattamente cosa stavo andando a fare a quell'ora, quindi da casa mia all'ospedale, e non sarei potuto in teoria andare a ritirare i referti. Chiaro, chiaro. Quindi comunque avevi un'autocertificazione che te lo consentiva di fare. Sì, ma non i referti in teoria. Quindi tu sei andato a ritirarla, poi l'hai portato al medico di base, e quella da tua al medico. Sì, al mio medico di base. E basta, poi lì si è concluso il tuo lockdown. Sì, però sono stato fermato dai carabinieri qualche giorno fa in macchina, che mi hanno detto che risulto ancora registrato con le misure restrittive sanitarie. E quindi erano preoccupati e volevano quasi portarmi a fare degli accertamenti. Grazie a Dio avevo i due referti dei tamponi con me sull'app della regione, sul mio fascicolo sanitario, e quindi questo mi ha evitato di finire in questura per accertamenti. Cioè, sembra davvero una situazione di sfidatura fantascientifica. Fortunatamente abbiamo qui con noi anche un esperto chimico, che ora con le sue grandi doti potrà smontare l'idea di questo fantomatico virus e supportare così la teoria di Sgarbi, ovvero non c'è nessun virus. Sì, ok, beh, esperta forse un po' troppo, però... Ok, e quindi grazie a questo simpatico incontro con questa... giovane semilaureata in chimica farmaceutica, ecco, approfittiamo dell'occasione per chiederti che cos'è un virus, cosa può essere un vaccino in generale, e secondo te se può essercene uno che possa davvero funzionare per questa cosa, qual è il tuo parere insomma riguardo a questi argomenti? Un virus è un patogeno che attacca un organismo ospite, in questo caso parliamo dell'essere umano, e provoca uno squilibrio nell'equilibrio fisiologico del paziente. E sappiamo che il virus si diffonde attraverso le vie aeree, sappiamo che è un virus a RNA che viene trasportato dal pulviscolo atmosferico, sappiamo sicuramente molte cose riguardo a questo virus, lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle, però sicuramente il processo di ricerca e sviluppo di un nuovo vaccino è un processo molto complicato e non bisogna prenderlo alla leggera. Quindi ecco, diciamo che io non mi trovo completamente d'accordo sull'idea di un vaccino express, ecco, insomma. Va bene, io ti ringrazio, vi ringrazio per questa intervista e tanti saluti da Radio Lost. Ciao. Somebody smart once spoke and said, don't put into your mouth what you picked up from the floor. Yeah, but you're stumbling in the weirdest scenes, warnings should it ignore, sniffing the carpet floor. Treasures lost in and gold, real deep leftover party crowns, scattered blueberry gown. Someday the ones will find. Salutiamo anche noi. Siamo andati molto lunghi, però avevamo tante cose. Un po' lunghi, sì, ma tanta roba comunque. Tanta roba. Salutiamo tutti. Ringraziamo qui a... Ciao Dario Lost. Ehi, ciao Nemo. chi ci ha dato i materiali, chi ce li darà. Ricordiamo la nostra email, che è lost@inventati.org. Abbiamo anche aperto un canale Telegram che di nome fa lost_notizie, lost_notizie. Vediamo come va. E cogliamo l'occasione anche per ringraziare, come di consueto, Cifti per averci offerto il pad sulla quale prendiamo gli appunti per la trasmissione, e tutti e tutte coloro che ci hanno dato supporto ed aiuto. Ringraziamo Claudia, che forse ci ascolterà dall'Oregon o dal Texas, visto che si stava muovendo da una all'altra, al contrario di come le ho dette, e la ringraziamo del suo contributo. Whenever Badoosy pours, blooming some metaphors. Future costs more than what's left, though vast is long gain of birth, like through the rick of first. Gathering steam, it seems I'd rather mess it all up before, crumbling under the board. To die long when you feel we've gone beneath. Nel salutarti vogliamo lasciarvi con un ultimo pezzo musicale lavorato che ha preso spunto da un contributo reale di qualche giorno fa di una coppia di avvocati, i quali danno un grosso, antico, prezioso consiglio nel caso si abbia a che fare con l'autorità esecutiva. E il consiglio, beh, lo capirete assolutamente, ma questo contributo... Beh, abbiamo iniziato con Breaking Bad e questo contributo sembra essere fatto dall'avvocato Saul Goodman. Mark and Craig, Pop Brothers at Law. We've been warning people, if you are working for an unlicensed dispensary, an illegal dispensary, and it gets raided, you need to shut the fuck up. If you shut the fuck up, you have a good, good chance that we can make the case go away. Case in point, 3 employees of an illegal shop were busted during a raid. 2 of them said, oh, I'm just volunteering here. The 3rd guy, shut the fuck up. And the DA did not prosecute the guy who shut the fuck up. They can't prove what you were doing there. If you're a customer, patient, walked in to go to the bathroom, they don't know. You got to shut the fuck up, and it's shut the fuck up Friday. So review the script. What do you say when the cop first pulls you over? Why'd you pull me over? And when he keeps asking questions? I'm not discussing my day. And they ask more questions? Am I being detained or am I free to go? And if detained, what do you say? I invoke the 5th. And then what do you do? You shut the fuck up. Shut the fuck up Friday. Never answer questions when the cops ask. Safe holidays. Tip of the day.